Venezia voglio vedere qualche morto. Anche tu vuoi volare, ma rimani sempre a giocare gli altri che vivono senza di te. Piano piano vanno sempre più avanti. Oh yeah, nel cuore batta rabbia. Oh yeah, nel cuore batta rabbia. Oh yeah, nel cuore batta rabbia. Oh yeah. Solo tu che guardi ancora indietro, solo tu che non puoi fare meno della gente che ti utilizzerà. Piano piano vanno sempre più avanti. Thank you.